Coltano a farvi vedere questo territorio, che cosa significano 73 ettari di distruzione. La prima volta che abbiamo letto il DPCM sulla base militare a Coltano sono state molte le parole che ci hanno colpito. Una di queste è ecostruttura. Ci dicono che questa base sarà impatto zero, perché alimentata con impianti fotovoltaici. Saranno inoltre progettate piantumazioni di vegetazione autoctona e ospiterà addirittura reparti di biodiversità. Bisogna essere chiari nel dire che questa operazione di greenwashing non è semplicemente propaganda, sono strumenti di perpetuazione delle devastazioni ambientali che sminuiscono costantemente l'emergenzialità del presente che viviamo, ovvero una crisi ecologica e climatica senza precedenti. Qualche pannello solare non può compensare i costi ambientalisti legati alle infrastrutture della guerra. Coltano e le aree protette del nostro paese, così come la lotta alla crisi climatica e ambientale, la tuteliamo solo se restiamo in grado di guardare nel complesso di biologia che porta le classi dominanti a definire rabbiosamente il nostro no ideologico. Il nostro non è un no ideologico, il nostro è un no pragmatico. Noi rappresentiamo una visione del mondo radicalmente diversa dalla loro. Loro invece avanzano un pensiero che difende altresì poteri fortissimi. Un pensiero che si fonda sulla narrazione di processi irreversibili, tanto sull'assunto che la guerra e il conseguente armarsi sia un dato irreversibile, quanto per fare solo un esempio che dalle fonti fossili sia impossibile per decenni anche solo provare ad uscire. Un certo ambientalismo miope potrebbe farci crollare. Per quanto ci riguarda, noi opponiamo radicalità all'ideologia suddetta, praticando un ambientalismo che converga con un antimilitarismo radicale. Se infatti compiacersi della vittoria in guerra è un rallegrarsi della strage degli uomini, anche accontentarsi che questa base sia costruita fuori dal parco senza consumare suolo e in modo discutibilmente sostenibile porta in sé la nostra sconfitta nel perseguire lo scopo della tutela dell'ambiente e climatica. Per questo il no a Coltano è compreso nel prioritario né altrove. Per questo siamo contro ogni base, per questo l'unica sostenibile è quella che non esiste.